Rosute di Dante Visentini, su parole di Aldo Visentini, è cantata da Stefano Lopizzo. Di che frutto è così miele, non che io ieri proprio sta, un tel fa di matto zele, che mi ha fatto innamorare. Oh, e vavi la mattina, sul puio da ieri sai, una biele cimiatine, la villegri all'avora. Oh, rosute, c'è también che rosute. Oh, rosute, ti daresne frusta dute. No ti prego, lassi mi sta, noie robe di mangiar. Se ti salti a sul cumò, no tu ses modo zutto. Oh, rosute, oh, rosute, c'è garò ful che bociute. Oh, rosute, profumate come un flor, sul cricade biele stelle, quante il scudaliere zaha, mi spietave sulla siere, cori bassa morosa. Ma un edì che berechine, non hai fatto anche che cai, mi ha lasciato la malandrine, io so che ti ha ti prei, lassimi sta, noie robe di maglia, se ti salti a sul fumo, no tu sei smodo zulto. Oh rosute, c'è garò che bociute. Oh rosute, profumate come un flor, profumate come un flore. La canzone Il Cook, musicata da Luigi Garzoni su testo di Guido Michelutti, è interpretata da Germano Zampa. Di sclopon, tac gli estate fate, tal puro ribalton, finché ti vedi core, finché tu ti abisco, non lassi ma me sole, se tu stu venisco. Cucu, cucu, cucu, cucu, cucu, il cuppai giam saltiante, cucu giantan mi dis, comandin nis maronis che son sempre dai pi. Il cuppai giam saltiante, cucu mi fiorin si, ma io cun che frutate, o cucchil montinti, o cucchil montinti, o cucchil montinti, cucu, cucu. me non mi può cave di la finire cut, ma il cur al mi brusave, mi bruse come il cut. Gli amici intorno ridin, mi nintu stare spres, gli snaini sempre arrivi, arrivi sempre pres. Vai giam saltiante cucù mi giolingi, ma io con che brutate o cucchil montinti, o cucchil montinti, o cucchil montinti, cucù, cucù. Albionte Tessarin canta Il Tavoli di Aurelio Cantoni, musicata da Marco Terravecchia. Compagne, la strada è chiante, tu puoi silpire. Sorelli e lune, d'aure d'arin, io vorrei stati quanto ti si, quanto tu passi svisto da flores, tal rio latrin, c'è mir conos, miracoli. Topoli di piumute, frute furlane quanta le scurì, c'è mutche listos, c'è sasta li gelis, sotto un pensier d'amore d'infini. Sorelli e lune, d'aure d'arì, io vorrei stato quanto ti sono, quanto tu passi svisto da flores, dal rio latrino c'è mil colore, c'è mil colore. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.